Io invece sai, pensavo che secondo me la birra, e ognuno porta un suo argomento, cioè una sua tematica. Arriva l'acqua. Positura, tura su missione, no buona. No, lo vedrete cosa succederà tra 18 mesi. Salvateli tutti. A stronzo! Pop Corner. Ah, belli di Runtime, bentornati a questa nuova fantastica trasmissione, che è una trasmissione talmente nuova che vi sembrerà la stessa trasmissione che avete sentito per tantissimo tempo. Con me c'è Marco Gualdi. Buon salve a tutti. È rievocativo. Non c'entra niente questa trasmissione, ma come facevamo a non mettercelo, insomma, un pezzo? E c'erano anche altri pezzi che avrei potuto mettere, ma ci avrebbero chiuso immediatamente. Soprattutto avrebbe fatto la Santa Inquisizione. Esatto. Nobody expect Inquisition. Esatto, esatto. Walter Sbano. Ma chi l'avrebbe detto? Ma che stava a fa? Poi ci arriviamo. E poi, sperando che il collegamento satellitare sia in ottime condizioni, c'è anche Carmine Puccio Console. Io vorrei ricordare a tutti che siamo qui per colpa di William Shatner. Naturalmente. Anzi, perché è ancora vivo. In realtà con Gualdi l'altro giorno abbiamo pensato a una cosa talmente malvagia che prima o poi lo faremo, no? Giusto? No, non è malvagia, è semplicemente... Facciamo il coccodrillo a cazzo. Live, esatto, così. È semplicemente il portarsi a previdenza. Esatto, perché prima o poi... Perché lo sai che quando succederà non saremo pronti, e questo ci farà rodere il culo. Soprattutto psicologicamente non saremo pronti. Invece adesso lucidi. Lucidi. Esatto. Scusate. Prego. Facciamo uno show, lo chiamiamo tipo Cocco Chat, tutte le settimane. Ah, ok. E ogni settimana raccontiamo un episodio della sua vita, come se lui morisse. Raccontiamo la sua morte in un modo diverso. Tanto una volta è morto nello spazio, una volta è morto ruttando Barbon, una volta è stato smolecolato nel teletrasporto, in realtà esisteva veramente sul set, cose così. Aspetta, perché poi alla fine, prima o poi ci azzeccheremo, esatto. E quando uscirà quella vera, track, la rimettiamo. Altro che Simpson, che hanno previsto tutto, noi l'avevamo già detto. Noi abbiamo previsto anche, certo, Simpson. Che se tu fai una trasmissione, cioè come i Simpson, per 25 anni, dove fai centinaia di puntate, qualcosa azzecchi, cioè nel senso, no, voglio dire, questa vabbè, però i Simpson hanno una media altissima, e poi sicuramente tutto interpretabile a uso e consumo, però hanno una media altissima. Pensate che proprio in merito a questo, insomma, tra i tantissimi messaggi che abbiamo ricevuto nella posta durante questa settimana, dove abbiamo fatto il countdown, c'è insomma la gente che vuole sapere di che cosa si tratta, perché tutti quanti, un programma nuovo, ma di che si tratta? La verità, e questa è la cosa forse più significativa e importante, che è giusto per avere un rapporto onesto con il nostro pubblico, è che non lo sappiamo, manco noi. Però Pop Corner significa che in questo angolo noi saremo un po' il Grande Reset, un po' le Orazioni della Sera, un po' GM, un po' Runtime by Night, un po' Marco Gualdi. Sai, Marco Gualdi, che c'ho una curiosità, poi dopo parliamo di che cos'è questo programma. Me lo sei sempre chiesto su Runtime by Night, scusami. Una cosa che non hai fatto da ragazzino e che avresti voluto fare. Il ragazzino, perché tu eri vecchio. Sono nato vecchio, quindi. Hai ragione. Bene, allora, che una trasmissione pop, cioè nel senso, noi siamo qui, ci sediamo e parliamo di cose pop, che possono essere dalle serie televisive a cose del passato, a anche, insomma, satira, politica, un po' tutto quello che facevamo pure prima, non è che è cambiato tanto, giusto Walter? Ma giusto, però a questo punto, scusa, facciamo anche un po' di radio di servizio e spieghiamo, perché non sarebbe lecito pensare che qualcuno non sappia bene il significato della parola pop. Pop è un termine che praticamente è la contrazione di popular o popolare, che viene usata per indicare più specificamente tendenze musicali, artistiche varie, che a partire dagli anni 60, ovviamente del XX secolo, hanno iniziato a introdurre nuovi criteri di tipo estetico fondamentalmente e contenuti rivolti a pubblico giovane e anche di massa soprattutto. Quindi l'arte e la cultura pop in qualche modo serviranno a farci sentire meno anziani, dico bene? La roba colorata. Beh, la roba colorata, soprattutto il pop anni 80, oppure se scomodiamo addirittura Andy Warhol, però insomma ci sono tantissime eccezioni di pop, poi dobbiamo capire noi quali vogliamo mettere in evidenza. Essendo una radio, forse quelle colorate, non so. No, ma poi scusa, dobbiamo scomodarlo. Ti frega di scomodarlo te, Marco? Ma chi in particolare? Scusa, ma ha visto mai riusciamo a rievocarlo? Chi dobbiamo evocare? Quindi, quindi Pop Corner potremmo fare anche delle sedute spiritiche a un certo punto. Però soltanto se ci aiuta c'è GPT. Vabbè, comunque, a parte c'è Chat GPT, che chiaramente sarà un membro, insomma, onorario ogni tanto, santuariamente. Membro perché è sinonimo di cazzo. Esatto, quindi, okay. Un membro di cazzo. Tra l'altro poi lo sapevi che sono arrivati dei messaggi audio da delle persone vere, proprio vere vere. Tipo uno è questo qua. Mi chiamo Gail. Vai. Ho trovato il numero telefonico del signor Pizzi per lasciare un messaggio importante. Io trovo che Puccio sia scoposo. Puccio, dove posso incontrarti? Qui, insomma, Puccio, c'hai subito, Hai beccato subito. Puccio, qualcuno vuole pucciare? Guarda, citando le portate parole di Antonio Albanese, dimenticami. No, scusa, ti trova scoposo. Oh, ma guarda che scoposo è un termine... importante, è un neologismo. Non sei sexy, sei scopo proprio, cioè gli fai proprio sesso. Sì, soprattutto nello stato in cui sono oggi. All'amico Gail, che è lo stato pugliese. Gail Street Fighter 2. Ma forse perché Gail. Perché lì oggi nel suo stato Puccio non c'ha neanche bisogno del lubrificante. Esatto. C'ha lubrificante. Sì, in questo momento. Se vuoi farlo nasale, sì. No, io no, a tutti l'esperienza. C'è anche quel tipo di lubrificazione quest'anno. Vabbè. Sì, sì. Scusa, che hai detto? No, ma io auguro veramente a tutti l'esperienza dell'influenza intestinale di quest'anno. Sì, sì. Cioè, veramente. Vedete la Madonna in Technicolor proprio. Ah, beh, quindi insomma, torniamo sempre. Me la raccomando. Torniamo sempre lì, colori ultravivaci e via dicendo. Sì. Ma noi siamo scienza, non fantascienza. Infatti, ma tu quando è l'ultima volta, Gualdi, che hai avuto la Square House? Beh, qualche mese fa. Anch'io, ma io ci ho avuto la brutta della settimanella abbondante. Sì. Tu, sempre il tuo grande problema è il cuore caldo. No, però non l'avevo. No. Ma l'hai pensato? No, questo ti è bastato per andare subito. Anche se l'altro giorno per parlare di cose pop, perché poco. Come puoi non definire pop il ramen, il lamen che fanno qui al ristorante cinese da noi. Devo dire che, come dice giustamente Sbano, non è che è particolarmente piccante, cioè è piccante, però non è una cosa insopportabile. Però evidentemente c'è uno di quei contenuti piccanti che sono che io li sopporto, ma il mio intestino no. E quindi cominciamo. Allora, perché l'intestino è comunque una propaggine del sistema nervoso, è poi considerato un secondo cervello, e quindi questa cosa inficia. Cioè, quello che non capisce il primo cervello, esatto, glielo dice il secondo. Ma che è sta merda? Esatto. Lì, probabilmente, tipo proprio brutto. Cioè, poi... Allora, secondo me, ragazzi, bisognerebbe analizzarlo in laboratorio, perché non è piccante in senso stretto, cioè, ti picca però più nel culo, tantissimo brodo. Sarà che è caldissimo, sarà che ci sono tante spezie, e poi le reazioni nel back office sono anche variegate. C'è chi te lo fa bruciare, c'è chi se c'hai quelle simpatiche amiche che una persona di una certa età comincia ad avere, chiamate emorroidi, diciamo che te le sveglia. Ma è proprio quello il problema. Perché poi in realtà non ti picca in gola, ti picca nel culo. Cioè, quando tu poi vai al bagno, devi smettere di assumerle per via anale, probabilmente, quindi comincia a mangiare. No, il problema è che il problema è che comunque deve uscire da qualche parte, e quando esce con la stessa proprietà piccantistica con la quale tu l'hai mangiato, cioè nel senso, che potrebbe far pensare all'Inception molto brutto. Ma io mi domando, cioè nel senso, perché poi, e questa è una domanda anche, cioè, non è a doppio senso di marcia. Non sappiamo. La domanda che mi faccio è una domanda scientifica, quindi solo ma noi voi sappiamo come è fatto il ramen, perché a questo punto no, io non lo sappiamo, non voglio sapere, non lo vogliamo neanche sapere. A questo punto non voglio saperlo, guarda, perché diciamo una cosa, noi ci siamo fatti una domanda quando ha cambiato di proprietà, il RAM è rimasto lo stesso, quindi c'erano due opzioni. Vabbè, anche tutto il resto del menu, dai. Sì, però alcune cose sono... Cioè, diciamo, il menu è rimasto lo stesso, però alcune i ravioli non sono gli stessi che c'erano prima. Secondo me sono più buoni quelli che ci stanno adesso. Però in generale... Perché ci sono dentro i proprietari di prima. No, ecco, cioè, nel senso, ammesso un concesso che il cuoco sia sempre lo stesso, gli Egualdi invece abbiamo ipotizzato che questi hanno fatto, quando gli hanno venduto, gli hanno fatto tipo... 70, 100, 100 litri di sto ramen e l'hanno surgelato. Allora ogni tanto piano piano lo tirano fuori perché è identico a come lo facevano prima, no? Però in effetti non ce lo siamo ci mai. Sta questa cisterna di brodo per il ramen sul tetto dell'edificio, esatto, con un tubo che scende. Esatto. Questi sono i vecchi proprietari, esatto, dentro, esatto, dentro, è chiaro, esatto. No, perché poi noi sto ramen che non ci siamo mai chiesti come è fatto, in realtà contiene al suo interno a delle altre sostanze ancora più misteriose. Che ricordiamo che sono. Sappiamo che il nostro ramen secerne svariate sostanze, ah, ma il loro utilizzo ancora c'è ignoto nella nostra scarsa nozione del cosmo. Ecco, a posto. E quindi praticamente che succede? Succede che dentro questo ramen ci sono delle polpette misteriose. Perché dobbiamo dire. Allora, abbiamo più o meno identificato, mi pare, da una serie di dichiarazioni che trattasi di maiale. Ora, maiale può voler dire tante cose, no? Sì, allora. Dai, non, è un veramente indefinito. Cioè, io che de carne sì, no. Ha una consistenza. Praticamente quanto è diverso. Allora, spieghiamo una cosa. Voi immaginatevi una polpetta come forma, una polpettina grandicella. Ma testicoli, grande... cioè, nel senso di quello che ne sappiamo noi. Esatto. Il problema è che non ha una panatura, non è fritta, è lessa. Però ha una consistenza quasi gommosa. Quando prima di affondare i denti, proprio se. Come ve lo spiego? Guarda, ragazzi, che se lo descrivi non te la mangi più. Cioè, secondo me. Siccome, e poi alla no, fine, è vero. Quando uno se la mangia, alla fine se la è mangia. È viscida, è molliccia. Cioè, è una palla perfettamente sferica di carne. Forse sono gli occhi del maiale. Potrebbe anche essere, chi lo sa. Io è per questo che vorrei non saperlo. No, infatti, non sa. Perché poi a volte quando lo mozzi sembra che esplode. Più una pupilla che un testicolo, questo è poco massimo. Ah, beh, sì, certo, la zuppa di occhi, insomma, storica. Forse vengono enucleati. No, adesso non cominciamo a usare dei termini che non... Vabbè, comunque, alla fine, di per sé è buono, però lascia tanti interrogativi. Esatto. Lascia prima tanti e dopo lascia tanti interrogativi. Soprattutto a volte anche durante, però. Tra l'altro Shuren, per esempio, che è stato con noi a mangiare il ramen, cioè lui non si è lamentato della piccantezza, ma del fatto che era bollente. Cioè è un po' come dire, non mai fatto male, so io che c'ho il braccio storto. Ma perché mi hai dato sta cortellata? Non è per il taglio, è che è fredda. Esatto, cioè, esatto. Scaldano il coltello prima di affettarlo. Cioè, è come dire, non è piccante, è che è bollente. Dai Shuren, che cazzo dici? Ma è un ramen, un brodo, te lo danno freddo, il brodo freddo vuoi? Cioè, fammi capire. Come la birra calda, comunque, insomma. Prego. Un pochino aspetti perché è chiaro che ti arriva rovente il quantitativo, poi tra l'altro è una boatta, non so nemmeno usare un termine in italiano per definire la quantità. Io infatti non saprei boatta che cosa sia, però lo posso chiedere a Puccio, ce lo può spiegare, diciamo, non meglio definito, ma tanta, perciò è chiaro che un brodo così caldo e così grande come quantità ti mette a dura prova. Io di solito faccio raffreddare. Ah no, a me piace caldo. Il problema caldo, è che corrode poi la porcellana. Lo so, quindi... infatti tu lo devi mangiare come la tazza di grog di Gaibra. Esatto, bravo, bravo. Cambiare... Tutto lo devi mangiare prima ancora che viene assorbito dal tavolo. Esatto, comunque vabbè, diciamo che poi ognuno ha la sua tecnica, ognuno ha la sua scuola e in qualche modo si supera. Però la cosa divertente è che per esempio Gualdi, che è un pavido, ha ceduto, noi eravamo quattro a tavola, ha ceduto ognuno di noi una sua polpetta. Vabbè, perché lui, quindi ognuno di noi ha mangiato quattro magna. Polpette, tranne Gualdi. Vabbè. Che comunque, poi sono ragazzi, quelli che mandano eccesso pizza, abbiamo scoperto. Prima si è palesato il nostro Luca S, quindi presumo che lui ci stia ascoltando, quindi lui lo salutiamo. Per il resto arriveremo a record. Andate tutti a fanculo, senza nessun problema, perché lo so che ci siete, state lì nascosti. Mi ricorda tantissimo quella scena di Star Trek 2, l'ira di Khan, dove c'erano queste astronavi nascoste nel buio e lui dice: lo so che sei lì. Kirk! No, quella era Khan che faceva, vabbè. Comunque mi sono un po' confuso, sempre per cultura pop. Mi piacerebbe, per esempio, in questa trasmissione, Gualdi, questo te lo dico a te che tu sei quello che proprio spruzzi, diciamo, entusiasmo e soprattutto impegno. Impegno, tu nelle trasmissioni ti impegni sempre tanto. Esatto. Cioè, i miei fogli di lavoro sono sempre pieni sì. di info. E sarebbe bello che ognuno di noi si portasse ogni puntata, o perlomeno quando capita, insomma, un'icona pop della propria infanzia. Che poi è un word in cazzo, cioè, nel senso, era Michael Knight. Esatto, Michael Knight, un'icona. Basta, è una. Se no, le altre puntate che faccio? Aspetta, fai parlare Sbano. Scusatemi. Vai. Perché Lucas ha postato una cosa importante che non so bene da dove sia stata prelevata, che dice praticamente a circa le 11 antimeridiane East Time, il lunedì 11 dicembre 2023, il nostro amato attore William Shatner è deceduto, e poi dice William Shatner è nato il 2 marzo 31 a Montreux, insomma ricostruisce un attimo la biografia, ma ovviamente è un fake. Lui dice news apparsa su Facebook, ma è un fake. Sì, Luca, quando glielo diremo lui, noi quando deve morire. Guardate, William Shatner è figo perché lui ogni tanto su Twitter, perché lui ha 164 anni e ancora scrive su Twitter, poi X oramai Twitter non esiste più, però lui non lo sa. Infatti. Ogni tanto lui, come si dice, X-a? X-a. Sì, io continuo a dire Twitter perché non me ne frega un cazzo. Ah, no, vabbè, diciamo però X. Però metti l'ipotesi che noi, da buoni amanti del pop moderno, vogliamo adeguarci. Come si direbbe? X-a? Posta. Secondo me sì, posta. No, vabbè, loro hanno stabilito, loro nel senso la trinità di Elon Musk ha stabilito che si dice postare come una qualunque cosa generica. Ah, così, l'ha proprio depersonalizzato. Perché anche lui non sa come chiamarla. Ma tra l'altro X è uno dei nomi del figlio, così per... C'è un figlio che si chiama X? Sì, X Lambda 41 bis, non sì, so, sì, una cosa... 400, no, 104, una cosa del genere. Io già faccio fatica a pensare che c'ha dei figli, quindi figurate. Comunque, vabbè, insomma, William Shatner ogni tanto X-a praticamente il fatto che, no, ragazzi, state tranquilli che sto bene, sono vivo, ancora non sono morto. Questo a luce tiene ogni tanto, perché di fake news sulla sua morte ne escono sempre. Ma lui lo sa perché? A parte il barbon, perché sopravvive ancora? Perché mangia il ramen. Quello lì, poi il lamen. Quel lamen. A proposito di lamen, Gualdi, c'è un messaggio anche per te, lo sai? Ah, un messaggio bello. Importante. Anch'io sono scoposo. Jinai Narugarudi-san, watashi tachi ga anata no manage o shite iru koto ni kizuite inai to hontou ni omotte iru no desu ka? Watashi tachi o baka ni dekiru to demo omotte iru no desu ka? O hokare hayakare, watashi tachi wa anata o mukae ni iku koto o hoshou shimasu. A te e tua madre. Sto no, allora, fame. Allora, intanto io l'unica cosa che ho capito è guardi san. Guardi san. Questa è la signora Maruvagia. Comunque, allora, cioè, a te e tua madre. Cioè. io dopo aver ricevuto un messaggio così, che non so cosa dice. Allora, innanzitutto non dice Luigi, quindi va bene. No, lui dice guardi san, e io però non gli risponderei a te e tua madre. Cioè, c'ho questa sensazione. Ma qua. Ma hai sentito che ha detto? Sono insulti pesantissimi. No, sto infame. No, ok, però ho anche il testo di quello che ha scritto. Se volete lo posto, poi ognuno se lo traduce, insomma. No, io ho paura. Hai paura? Sì. Va bene. Poi ho tradotto in finlandese. Va bene, quindi parlaci di Michael Knight. Michael Knight è quel ragazzo, perché era un ragazzo, un pischello, e come noi finiva sparato in faccia e cambiava identità. E poverino diventa da quasi morto, diventa pilota di una macchina dotata di intelligenza artificiale. Che ChatGPT, insomma, non è niente a confronto. Gli fa una zaganella. Questa ChatGPT si chiama Kit. Si chiama Kit GPT. Come Kit e Murta. Che poi, tra l'altro, se tu ci pensi, no? Questa era la cosa della visione degli anni 70-80, un po', no? Del computer senziente che parlava. Che non è che solo il computer era intelligente e ti rispondeva, perché continui a dare cazzotti al microfono? Che bello. Dopo 20 anni che fai sto mestiere. Il microfono mi sta in posti terribili. Sistemalo. No, non posso. I fili sono. Però scusa, posso dire una cosa? L'anno scorso lo leccava, quindi è un passo avanti. Esatto. Quello prima lo mordeva. No, esatto. Quello era il citofono, ricorda? No, quello è. No. Quello è un giorno in predura. Un giorno in predura, esatto. vabbè, quello non potremo mai arrivare a tanto. E alla fine questi computer non solo che ci sapevano e parlavano, ma c'erano pure un carattere, diciamo. Certo. Una sensibilità. De merda. De merda sempre, perché poi devono fare che loro erano i computer. Quindi vabbè, quindi Michael Knight. Bello, bello Michael Knight. Ti ricordi Michael Knight? Allora, a me il supercar devo dire che mi piaceva. Cioè, era... Allora, già da ragazzino capivo la tamarrezza di quella. Hanno inventato l'Apple Watch senza schermo, hanno inventato l'autoguida. Cos'altro hanno inventato in quella, cioè se la sono proprio immaginata bene. Cos'altro il, ecco, quello che ci manca è il Turbo Boost. Però noi ci abbiamo fratellini. C'è sulla Tesla. Sì, anche. Salutiamo Libra che ci ha mandato un pensiero, non so bene in quale lingua, però va bene. Insomma. Penso grazie. Che sia la fonetica del messaggio del giapponese, sai? Cioè, il testo vuoi dire? Allora, non lo so che cosa, cioè, secondo me l'ha ritradotto in un'altra lingua. Cioè, questa sensazione. Sì, questo è tipo finlandese, perché gli ho detto di farlo in finlandese, quindi l'ha tradotto. Ah, quindi, c'è okay. Anche scritto tra l'altro. Okay. Poi si capisce perché. Herra guardi l'uletco è finlandese, ovviamente. E io pure, infatti, negli anni '80 parlavo il finlandese. Cazzo culo. Cazzo merda. No, cazzo merda. Cazzo merda. Cazzo guarda figa era, raga, mi sembra. No, cazzo merda, cazzo merda. Guarda il mare. Vabbè. Guarda il mare. Guarda il mare, sì. Divenne famosa quella. Sì. Infatti gente che diceva cazzo merda in continuazione. Ma chi era lei? Chi era lei? Era cosa? Come si chiama? La Miss Italia? No, dai, no, chi era lei? No, era Sanremo, era Sanremo. Era Sanremo, Baudo. Però era, lei era tipo la Miss Italia. Non era una bionda, mi pare. No, era la valletta di Pippo Baudo insieme ad Anna Falchi e insieme a Claudio Acollo. Anna Falchi. Beh, era Anna Falchi, bravo, era Anna Falchi, sì, bravo. Anna Falchi, e l'ho detto Anna grande Falchi. Grande Tova, Anna Falchi che tra l'altro continua di muoverla sta cosa. No, invece no, è feedback. Anna Falchi che continua a farsi le foto su Instagram con le magliette da Lazio, poi non ho mai capito perché, però insomma, tutta mezza nuda con ste magliette, insomma. Perché sono porno evidentemente le magliette. Gli piace, capito? Ma poi devo dire che quanti anni ci avrà adesso? Ce l'ha una cinquantina d'anni. Una cinquantina. Più. Oh, raga, abbiamo noi una cinquantina, ma la nostra coetanea ancora, no. Però ancora. Beh, anche Sabina Salerno c'è 50 anni. La tua banana, come diceva la Runtime by Night. La tua banana. La puntata più assurda che prima o poi pubblicheremo, forse, se supererà la censura. La censura di un uomo solo, tra l'altro. Sì, Francesco. Esatto. Francesco che è lì, insomma. E vabbè, quindi vabbè, Michael Knight Supercar. A voi piaceva Supercar? A voglia. Se capita lo guardo ancora adesso se lo passano. Quello vecchio? Sì, no, quel tentativo di remake, di reboot schifoso, lascia stare. Ma l'hanno fatti due dei remake, l'hanno fatti due dei remake. Allora, c'era quello hanno che era un film TV. Sì, che era una merda. Che non è mai andato oltre. E poi quella serie più recente. Poi. Il pilota col figlio di Michael Knight, che vabbè, lasciamo sta. Sì, che poi esatto, nel frattempo arriva pure David Hasselhoff a fare una comparsata verso la fine, ma una serie veramente, veramente fatta male sotto tutti i punti di vista. Infatti non è andata, se vi ricordate, all'inizio mi sembra del decennio 2010, no? Erano usciti tutti questi remake, tentativi di remake, hanno fatto La Donna Bionica, anche quello molto brutto. Hanno ah sì, con quella che faceva Scorpio su Battlestar Galactica lì, che faceva la cattiva, però, sì. Sì, esatto. E, insomma, e altri tentativi. Charlie's Angels, forse? No, Charlie's Angels. Sì, credo. Ah, come no? Film, sì, hanno fatto il film, però. Hanno fatto il film, sì. No, sì. A parte i film, i film, però, quelli sono un po' più vecchi. Sono fine. No, 2000, due o tre anni fa, 3-4 anni fa. Adesso. Adesso. Però c'è anche un altro con. Vabbè, comunque non mi ricordo, però c'è un ultimo messaggio, aspettate. Vai. Jinai Narugarudi-san. No. Ciao, sono veramente felice che è finalmente partito Pop Corner. Insomma, avevamo bisogno di un programma così. Ora mi raccomando, non mandate tutto a puttane come sempre. Ciao, sono... Vabbè, niente, spingo pulsante a caso un po' come fa Sbano. Sì, brava, così si fa. Pianista, così. Ma lo sai perché? Perché secondo me è il mixer che... Cioè, se tu vedi sti pulsanti e spingi tutto, capito? Quindi... Perché ti piace spingere i pulsanti. Esatto, io ho la spingimento dei pulsanti. Tra spingitori l'altro salutiamo anche Vincent Valentine's. In presenza, buonasera. E c'è Libra che ci dice bravi, mo non so perché cosa, però insomma... Bravi per il fatto che l'ha detto subito dopo il finlandese, perché se vai a vedere insomma in sequenza, Ma se proprio parliamo, la mia icona pop degli anni 80 è Samantha Fox. Lavoro vince facile. Cioè, nel senso che se tu ti mettevi. No, vabbè, stavo a dire una cosa che forse è più della Time My Night. Però se tu mettevi il poster di Grandezza Naturale. Basta, ho finito di dire. Esatto. Giocavi a freccette senza freccette. Facevi quella fine, insomma. A volte rimaneva appiccicato sul muro da solo. Ma andiamo avanti perché sono brutte storie da raccontarsi. E quindi niente, questa Samantha Fox, che tra l'altro, oltre a invece, insomma, la sua sovrabbondanza, c'era la maglietta con scritto Touch Me, che era anche la sua canzone. Sì. C'è canzone più giustamente popolare. Vincent ci ricorda, dice Sabrina Salerno, che è il top anche oggi. Sabrinone macchia benissimo. Ma voi sapete che Sabrina Salerno c'ha lo stalker? Sì, sì. Povera. C'è dal 2021. Non sono io, quello purtroppo non sono riuscito a stalkerarla. Però c'è questa donna francese. Non sono capace purtroppo. Però c'è questa donna francese che dal 2021 la stalkera, gli dice che praticamente lei è sua moglie e il diavolo le divide. Quindi, ok. Vabbè, questa non è una stalker, questa è, cioè, sì, però persone con grossa crisi. Con grossa crisi, però lei vive nel terrore. Vive nel terrore perché con questa moria di donne lei teme di essere la prossima vittima. Io gli direi: però in quel caso non sarebbe colpa del patriarcato. No, stai tranquilla. Cioè, secondo me c'è de peggio rispetto a The Stalker. Insomma, cioè. Sì, immagino di sì. Sì, quindi sta tranquilla. Comunque, posso tornare a Samantha Fox? Torna a Samantha. Samantha Fox, vai. Che era biondina. Cioè, sì, ma non ti concentrare troppo, perché poi sai. Vabbè, ho finito. E poi un attimo, veramente. Sì, un attimo. Tipo 2 secondi. Vabbè, ma Puccio, qual era la tua icona pop degli anni 80? Sberla dell'A-Team, assolutamente. Grande, io lo adoravo, ragazzi. Per me era il personaggio più figo. Cioè, io impazzivo. Cioè, era evidentemente quello più incapace dal punto di vista tecnico e artistico. Era solo che era la parlantina. Ah, ma Sberla era quello biondo. Sì. No, a me piaceva Murdoch. No, a me piaceva Murdoch. Io impazzivo per Murdoch. Ma Matto Murdoch, beh, anche perché, voglio dire, è anche apparso Next Generation, c'è questo ambivalenza. Vabbè, no? Sberla stava in Battlestar Galactica. Qual era, scusa? Scorpion. Galactica 80. Era nella terza stagione in cui stavano nel nostro presente. Si chiamava Galactica 80, era una specie di spin-off di Battlestar Galactica. E in più stava comunque nel Galactica originale. Ok. Ah, beh, anche? Giusto. Sì, ah, è vero, sì, giusto. Scorpion, giusto, lo c'è il biondo, è vero, hai ragione. Scusa. Starbucks. Dirk Benedict. Sì, perché Starbucks è diventata donna nel remake, prima era un uomo, esatto. Sì. Ed era comunque il remake del 2005 è spettacolare, ragazzi. Comunque volevo dire che a me piaceva Murdoch, non solo perché poi dopo è diventato Barclay, però proprio mi piaceva proprio, ma anche esteticamente era fatto bene, cioè era proprio costruito bene quel personaggio, perché tu lui faceva il matto, però ce la sapeva, a me piaceva troppo come personaggio. Ogni volta lo tiravano fuori dal manicomio perché lui faceva il matto perché voleva stare in manicomio, ma non era matto, era semplicemente molto istrionico, diciamo. Oggi non sarebbe ricoverato. No, ma anche perché poi ricordiamo che loro gli influencer su probabilmente. Loro erano dei criminali militari, erano cercati dalla polizia militare per essere processati, no? Poi mi ricordo che fecero il processo poi a un certo punto, che faceva ridere perché perché nell'ultima stagione il classico politico americano li prese sotto la sua ala, in qualche modo li mise sotto la tutela, gli diede una forma di protezione, ma loro dovevano svolgere delle black ops per conto suo e più o meno del governo. Era, diciamo, per cercare di risollevare la sorte del telefilm che stava andando. Che poi voi immaginate quanti proiettili a salve sono stati sparati in quella serie televisiva, eppure non c'è manco una goccia di sangue, mai, neanche manco un gram, niente. Perché loro sparavano per terra, loro sparavano quasi sempre a salve o per terra, cioè non ammazzavano. In realtà c'è solo una puntata dove ammazzano gente, e quando vengono mandati in Vietnam a ricoverare non so che cosa, e lì, visto che ci sono i fottuti musi gialli, possono sparare. Lì potevano ammazzare, certo, se no ammazzare gli americani non è. No, non si poteva fare. Raga, differenze. Poi vabbè, vabbè, comunque era una serie con rating per ragazzini. Sì, sì, vabbè, però dai, cioè nel senso. Vabbè, questa cosa che sparavano a salve non la sapevo. Io pensavo che sparavano per terra proprio apposta per. No, cioè loro, loro praticamente no, sparavano. Cioè, la loro funzione qual era? Quella di far rumore praticamente. No, loro no, in realtà loro sparavano con armi vere, no? Sparavano con armi vere. Okay. Però cioè, non sparavano mai addosso alle persone. In realtà sparavano sempre sulle macchine. Qual è a l'utilità terra. Di questa cosa? Scusa, devi mettere i paura e fai avere un rating appunto per bambini. Ah, ok, va bene. Va bene, va bene. Invece l'icona pop di Walter Sbano. Dai, lo so che ce l'hai, lo so che guarda, ce l'hai. Vabbè, anni 80, beh, passavo tantissime ore davanti alla TV e quindi sì. Era la TV, la tua icona. Car, era la TV, dico, proprio la TV in sé. Devo dire la verità che ci passavo fin troppo tempo, quindi un po' in generale, però vabbè, anche cose un po' più italiane, tipo i ragazzi della terza C, per dirne una. Sì, dai, erano forti, ragazzi. Dai. Allora, a me mi faceva. Cioè, io ero combattuto, devo dire la verità. Perché di principio mi faceva schifo. Però poi me lo guardavo perché alla fine. Perché alla fine raccontava una storia che riconoscevi in qualche modo. Intratteneva. Vabbè, no? Diciamo che comunque raccontava storie di adolescenti che non erano all'americana, quindi erano. Sì, poi adolescenti. Si poteva medesimare un po' di 30 anni. Vabbè, esatto. Ma si fa anche in America sta cosa. Sì, vabbè. Magari in America perdere. Scelgono meglio, però. No, beh, forse in America lo lavorano un po' meglio questa cosa, però è vero, c'ha ragione Walter, cioè, alla fine comunque è una cosa nella quale ti identificavi. In America sì, come e poi tra l'altro la scuola dove era girato i ragazzi della terza C, che era il Giacomo Leopardi, in realtà non era il Giacomo Leopardi, ma era una scuola che stava praticamente sotto Ponte delle Valli, verso tra quartiere, come si chiama, Viale Somalia, Ponte delle Valli con Cadoro, che era a un tiro di schioppo dove abitavo io, tra le altre cose. Ah, quindi tu eri nei ragazzi della terza C? Eh no, ero piccolissimo, non ero anagraficamente compatibile, andavo alle scuole elementari quando c'erano i ragazzi della terza C. Ma in prima gli visione. Erano qual era però, cioè, se qual era la tua sezione alle superiori? Alle medie, anzi. Che erano medie e superiori la D, loro? La D di Domodossola alle medie. Ah no, loro erano superiori, hai ragione, è vero, poi facevano l'esame. Erano superiori, erano liceo classico. Io sezione E, sia alle medie che alle superiori. No, io alle superiori il grosso ero sezione B, perché l'ho fatta qui a Monterotondo e a Stento c'erano due sezioni. Era, che schifo Monterotondo. Quanti eravate in classe? No, non era, allora io sono arrivato a Monterotondo in secondo superiore, eravamo tantini e tra l'altro c'erano persino quattro ragazze. E però in seconda o cinque addirittura, in secondo c'è stata una mattanza, quasi una decina di bocciati quell'anno, tra cui praticamente tutte le ragazze tranne una, che poi Porella Loretta, ancora me la ricordo, se dovette sopportare 20 errotti maschi per altri due anni da sola, quando poi siamo arrivati in quinto e dal quinto dell'anno precedente hanno bocciato tre ragazze che quindi si sono ritrovate solo per lei l'hanno fatto, Sì, probabilmente sì, no, perché veramente, cioè, sopportasse 22 maschi insolenti, moleste sessuali come ogni 3 secondi. Ma no, non è una questione di molestie sessuali, è proprio che non avessi proprio la possibilità di interagire in maniera sana, cioè, su, dai. No, no, infatti, cioè, comunque, allora, devo essere sincero, per quanto potessimo essere tutti maleducati e molesti, nessuno ha mai mancato di rispetto in maniera, diciamo, di nessun tipo alle ragazze che ci sono classe, non è. Ma nemmeno allusioni, niente, cioè con tutto che magari era una sezione di maschi anche con le teste calde, quelle, sai, il classico, quello un po' più bullo, quello più potevano succedere varie cose, malgrado questo nei confronti delle ragazze non c'è mai stato nessun gesto particolare segnalabile, nemmeno con i problemi culturali che ci sono adesso. Ecco, anche se avessimo trasferito pari quella classe di persone oggi, nessuna potrebbe dire mi sono sentita molestata, sicuramente no. E cominciarono ad arrivare raccomandate così a caso, tipo cose così. Tra l'altro Vincent dice Sbano uno di noi, ma non so perché cosa, però poi ce lo spiegherà, insomma. Però l'importante è che sbarra uno di noi. Forse per la sezione, o forse per la scuola. Forse perché ho citato i ragazzi della terza C o qualche cosa di noi. Adesso magari se il nostro Vincent ce lo vuole dire. Ce lo spiega. Intanto noi andiamo, ci dirigiamo verso Puccio per sapere qual è la sua prima icona pop della... Stava a dire che era sberla, ma siamo finiti a parlare di Murdoch. Ah, scusa, eri tu che stai a parlare di sberla, hai ragione, scusa, vai. No, perché suppliva il fatto di essere evidentemente quello fisicamente più scarso là in mezzo. Anche il più inutile, cioè alla fine lui andava avanti con l'inganno, insomma, faceva il piacere. Andava avanti con la faccia de cazzo, esatto. Ma manco con l'inganno, perché spesso lo sgamavano. Mi piaceva questo fatto che lui andasse assolutamente convinto che nessuno lo sgamasse, cosa che 9 volte su 10 non... Posso dire una cosa? Andiamo a buon fine. È un po' il Terence. Posso dire che è un po' il Terence Hill americano? Quando faceva. Che menava di meno? Sì, no, Terence Hill menava. Però quando faceva le facce, quelle sceme tipo mai sgamato, ricorda un po'. Le faccette. Ricorda vabbè, un po' ragazzi, lui si chiama The Face in originale proprio perché faceva la poker face. Sì, era l'impassibile in quel senso. Attenzione, quando parlavamo di Face, era quello che riusciva sempre a risolverla così, e poi era il belloccio, quindi comunque anche quello. E va bene, comunque sberla, insomma, lui gli piaceva sberla, insomma, a nessuno gli piaceva la cugina di Boy Duke, per esempio. No, quello vabbè. Però se ci pensate, che schifo, no, quello va bene, un altro mistero. Ma non è Nicola Pop. Ah, Hannibal. Ma la cugina Daisy, se la vedete adesso vi spaventate. Vabbè, grazie al cazzo, vabbè, capito. Vabbè, che dicevi, Hannibal? Comunque, dicevo, c'è una delle carriere più strane della televisione. Cioè, Hannibal, il film precedente che aveva fatto, tipo, era Colazione da Tiffany. Come ci è finito a fare Hannibal? No, aspetta, George Peppard, negli anni 60, era un attore abbastanza in voga. Era un signor attore. Diciamo, un bell'uomo. Che è? Faceva film, faceva cinema. Poi è stato un po' messo da parte e a un certo punto... Che cos'è? Scusa, non lo so. Rumori meccanici. Era Vincent, l'ho mutato. No, so chi è. Andrea Trevisan, vero? Ah, sì, fammi guardare. Che sta a far caffè, lo scemo. Ah, beh, fa bene. Scemo? scemo, gomma. Adesso puoi parlare, Andrea. Tanto l'abbiamo sentito che si sta a far caffè. Che ricordiamo, lui il caffè lo fa non con la macchina del caffè, ma lo fa con un trapano, ricordiamocelo, insomma. Buonasera, buonasera anche Andrea. Buonasera a tutti. Ma con questo problema che la macchina del caffè fa il caffè quando vuole lei, quindi ne approfitto. No, perché allora l'altra sera durante quant'è un'ora e mezza di trasmissione che abbiamo fatto, c'era lui che faceva caffè in continuazione. Allora, ci sono due le cose: o fa il caffè perché se lo beve, oppure lo accumula perché c'è la mattina che non gli funziona la macchinetta del caffè. Eh sì, ogni tanto premi il tasto e non lo fa. E allora tu quando te lo fa dici ne approfitto. Dici ne approfitta. Certo, e la mattina te lo scalli. Che triste che le cose che vanno prese al volo così, come il sesso dopo i 40 anni. Vabbè. Non cominciare a fare cose autobiografiche come al solito, insomma. Andrea Trevisan, qual è la tua icona pop degli anni 80? Oddio. Così, a freddo. Eh sì. Ma tu quanti anni c'avevi negli anni 80 tu? Ma ero piccolo, sono del 77, anni 80. 77, cazzo eri piccolo, insomma, dai 80, 90. Insomma, non so, io... Ma di musica? Ma no, quello che ti pare. Sì, esatto. Sì. Anche porno, eh. Cioè, per esempio, Moana Bozzi era un'icona pop degli anni 80. No, guardavo robe tipo i team, quelle robe lì, per cui tutti quei personaggini così. I personaggini. Beh, fossi grande amante. Io ero un nerd, cioè non guardavo manco la televisione, stavo tutto il giorno a leggere robe tipo di elettronica. Sì, però, cioè, scusa Andrea, ma questo te l'ho già detto su Runtime by Night. Noi potevamo fare tutte le trasmissioni dove ci sei te, se sente tu che fai lo zabaglione, cioè, nel senso, abbi pazienza. Ma no, ma davvero si sente, scusa, ma è troppo forte. Non è tanto il fatto, ciao Andrea, non è tanto il fatto che bevi il caffè, che lo bevi zuccherato, che è inquietante. Vabbè, ma lui è De Venezia, che vuoi che capisce, scusa. Aspetta, abbassa un po' il microfono, si sente? Intanto il nostro Vincent ha spiegato che voleva dire quando ha detto che sono uno de loro, è perché lui è nato e cresciuto a Montesacro, che ovviamente era limitrofo a Piazza Addis Abeba, quindi quartiere Somalia, dove ho vissuto io la mia infanzia, e andavo a scuola a Montesacro prima di venire qui a Twin Peaks, ecco. Insomma, alla fine... probabilmente ci siamo anche incrociati, chi può saperlo? Io insomma alla fine il borghese so io. Il Borghetti che abitavo a San Giovanni. Ah, capito, San Giovanni. Sono nato e cresciuto. Ci sei anche rimasto molto più di me a Roma, insomma. Io sono andato via che avevo 15 anni, diciamo, 15. Siamo stati strappati dalla civiltà. Comunque. Quanto è stato brutto all'inizio. Da adolescente è stato veramente... No, forse brutto. A te è peggio, sì, forse era peggio, perché certo da... Considera che io sono arrivato a Monterotondo in un periodo storico in cui a Monterotondo non c'era un cazzo di niente. Ma c'erano io non stavo nemmeno a Monterotondo, stavo a Monterotondo Scalo, quindi praticamente tagliato fuori dalla civiltà, il motorino manco a pagallo. Lasciamo stare. Vabbè, però dai, cioè col Cotral da Monterotondo Scalo sono 3 minuti, su... Alla fine, se conoscevi, sì, ma gente... io avevo tutti gli amici a Roma, quindi il mio lo so. Fondamentalmente, no. Io passavo il sabato pomeriggio, subito dopo pranzo, correvo a prendere qualunque mezzo mi riuscisse a portare a Roma. Ed era i primissimi anni era il Cotral, perché il trenino metropolitano ancora non era stato ripristinato. E poi la sera, quando erano le sette e mezza, andavo a pregare la misericordia di trovare un altro autobus che mi riportasse a casa, oppure eventualmente proprio facevo gli scongiuri che mi venisse a prendere mio padre. E questo era l'unico giorno della settimana in cui in qualche modo uscivo da una forma di isolamento. Nel resto della settimana sì, avevo qualche amico qui a Monterotondo, però sai, quando gli altri si cominciano a fare il motorino e a te non te lo fanno, e la zavorra te la fanno fa fino a un certo punto, dopodiché magari i primi amici con le prime pischelle, una cosa e l'altra, e te rimani poi ti attacchi al cazzo, lo so. Ho avuto il motorino molto tardi, non volevano assolutamente prenderlo. Però Walter, considera sempre che te poteva andare peggio, potevi diventare amico de Sban, de Gualdi anche già da ragazzino, capito? Quindi tutto sommato... Scusami, mi è mancato completamente il segnale. Cioè, nel senso che nella situazione nella quale tu eri, potevi anche diventare amico dei Gualdi già da ragazzino, quindi poteva andare peggio. Vabbè, poteva succedere. Ma fortunatamente. Lo sai, Gualdi non sa manco andare in bicicletta, noi lo diciamo sempre sta cosa, perché è una cosa che mi ha sconvolto, però. Comunque, la bicicletta è un mezzo pericolosissimo, muoiono milioni di persone al mondo. E non ci credo mai. Anno. Aspettate, vi siete accavallati. Alla Gualdi ha detto che la bicicletta è un mezzo pericolosissimo e muoiono milioni di persone al mondo. E Sbano, hai detto? Che contando Marco, io questo non me lo ricordavo, ho ben 2 amici che non sanno andare in bicicletta, e questa cosa mi stupisce come... Boh, per me è talmente ovvio e evidente imparare ad andare in bicicletta da bambino, che quando uno mi dice con naturalezza no, io non ci so andare, non ci credo. Beh, io devo dire che ho imparato ad andare in bicicletta perché d'estate andavo a sto consorzio al mare, più o meno era tutto abbastanza circoscritto, e quindi tutti avevamo le biciclette e abbiamo imparato lì le biciclette. Se era perché comunque lo dovevo imparare a Roma, magari sarebbe stato diverso, insomma. Però comunque in generale questo è. Però volevo dire anche, dato che abbiamo fatto già una prima panoramica per far capire, insomma, che magari parleremo anche dei film, serie nuove, qualcosa insomma di elettronica, faremo anche un po' di satira politica, ma cercheremo insomma di alleggerire un po' la questione, sì, cioè, sì. Questo è lo spazio del mercoledì dove si parla di cose pop, le cose nerd che avete voluto tanto, che rompete i coglioni, parliamo degli anni 80, ecco qua. Ma non parleremo solo degli anni 80, però ci saranno, diciamo, anche non in maniera istituzionale come fate in Quando Eravamo Futuro, esatto, sì, sì, più... molto easy, certo, è chiaro. Ma ci saranno però delle rubriche un po' extra, no? Tipo la rubrica, una è quella della rubrica del cuore disagiato della nostra amica Mercedes, che è quella che, voi sapete, sì, ogni tanto ci porta il caffè, che pulisce insomma gli studi di Runtime. Perché... aspetta, ma porterà il caffè anche ad Andrea? No, perché no, Andrea è costretto a farselo da solo. Esatto. Andrea, in un girone dell'inferno, hai visto? C'è quelli che si devono, che mangiano la testa di quell'altri, quelli che navigano nella merda per l'eternità. Sì. Lui sta lì attaccato alla macchina del caffè a spingere il pulsante. E gli esce sempre quando non lo vuole. Esatto. Quello è il tuo. Esatto. Cazzo, adesso non lo voglio e te lo devi. Sono sveglio, non ho bisogno del caffè. Brrr. Esatto. Comunque, volevo dire che la rubrica del cuore disagiato di Mercedes, alla quale ovviamente dovete partecipare. Quindi, se avete dei problemi di cuore, invece di scrivere la letterina, cioè, mandate dei messaggi audio a noi, noi li ascolteremo. E Mercedes, che oltre a essere una bravissima donna di casa che fa le faccende, è anche una cartomante con le sue carte di cartomanzia un po' particolari, e vi dirà insomma come andrà a finire. Io so che quelle carte, come avrete vagamente intuito, questo programma non sarà woke, sarà fortemente patriarcale, ma voi non fateci caso. Ma sì sì, comunque quelle carte sono, no, tu le hai discriminate con, cioè così, ma sono carte che sono pervenute a lei dopo generazioni, esatto, hai sono ragione. Generazioni sono e generazioni di fluido, infatti. Non sappiamo quale fluido, però sono cariche di fluido. Sono carichissime. Diceva. Scusate, il nostro Vincent dice una cosa che io effettivamente ho voluto omettere, perché ho un po' di contrasto, nel senso che lui dice: gli anni 80 per me urlavano furiosamente drive-in, e sicuramente vale per tutti noi, solo che adesso, col senno di poi, adesso che ne capisco le finalità, ho un po' di rimorso a ricordarlo, però sì, è stato. Vabbè, però fondo. Dai, comunque sì, ci sono stati dei personaggi. Oh, la smetti, sbatte. Adesso fermo. Cazzo. Fermo. È fermo. Tu pensi di essere fermo, non sei fermo. Comunque, oltre alla rubrica del cuore disagiato, insomma, di Mercedes, la quale appunto continuo a invitarvi a mandare messaggi audio con i vostri problemi. Ma chi è che batte? Ma io sto per i cazzi miei. Capito? Ma io sento un cuore che batte, tuc dentro le orecchie. Comunque, il cuore di Roma. Ci sarà anche la seconda rubrica, che però questa sarà un po' più saltuaria, perché dipende, che ne so, magari Puccio se gli va, oppure se c'è Andrea pure, perché poi Andrea magari qualche volta c'è, qualche volta che cazzo vuole, però ma possiamo fare la rubrica che era una rubrica buono. Era una rubrica che andava tantissimo negli anni 90, che era quella del tecnico del computer. Anche tecnico del computer, cioè nel senso tutte quelle problematiche che avete col computer, voi ci scriveteci, ma no, scriveteci, fatevi sempre messaggi audio, il tecnico col computer, anche lui con delle carte, però sono delle carte tecniche. Mie non hanno fluidi. Ho paura che ci scrivano gli avvocati di Aranzulla, però adesso perché, scusa, perché pure Aranzulla perché un po' rubargli il mestiere a chi? Aranzulla, ma che mestiere? Aranzulla, diamo tutti i consigli assolutamente, scusa, inutili. Ma Aranzulla che cazzo come di mestiere fa? È uno, esatto, che copia e incolla le robe, esatto, destra a manca, cioè. E ricordate che se, cioè, loro hanno Aranzulla, noi abbiamo Arambengio, quindi esatto. E quindi c'è il tecnico del computer che con le sue, anche lì il metodo della cartomanzia, perché è un metodo pure quello, cioè. Non è male questa cosa di unire la cartomanzia e l'informatica, computer, no? Perché in realtà certe volte la cartomatica diventa, certe volte è tutto basato sulle carte, cioè sulla divinazione. Tu vai lì, accendi il computer, fai una cosa, a volte non sai perché è venuta fuori. Guarda, io a volte usando il computer le divinazioni ne ho tirate giù abbastanza. Soprattutto all'epoca di Windows 95. Tanti Anubi, eh? C'è tanti anche da Anubi. Dire che ogni tanto riparo delle cose che il cliente mi guarda e mi fa: ma lei è un mago? Io divino. Io di birra, però ognuno. Divino, insomma. In Veneto poi soprattutto. Io non l'ho capita questa. No, non c'è niente da capire. Non c'è niente qui per te. Vabbè, io direi Pizzi, potremmo anche, secondo me dovremmo anche fare invece una rubrichina sui VIP. Scusate, intanto sto controllando. Alla fine del primo tempo l'Atletico Madrid vince contro la Lazio per 1-0. Sti cazzi, devi dire questa cosa, devi uscire dal tuo personaggio di Lazio. Sti cazzi. Comunque, una bella rubrica sui VIP. Ma io non so un personaggio, io so questo. Devi uscire dal personaggio. Questa rubrica sui VIP. I VIP, dai, spiegaci la rubrica sui VIP. Dovremmo farla sui VIP, cioè veri impazzite people. Cioè, i VIP che fanno le cazzate, tipo, che ne so, Red Ronnie. Cioè, ogni tanto le tira fuori queste cose. Non è che fanno le cazzate, che oramai sono andati fuori con la cucuzza. Infatti, veri impazziti people è quello. Cioè, quando tirano fuori quelle cose, che è stato un po' fuori dal seminario. Con gli alieni, con Elvis Presley. Sì, tu con gli Yeti, con tutto, insomma. Cioè, con Jimi Hendrix. Segniamocele queste cose. E poi lo sapete che stanno tutti dentro la stessa isola, no? L'isola degli mortacci. Sì. Esatto. L'isola dei mortacci, esatto. Sbano, tu sei d'accordo su questa cosa dei VIP? Ma guarda, io ultimamente sono un po', vivo in una bolla in cui tante cose non ci sono, quindi non so bene. Ho i VIP contemporanei, io non li conosco. Se parliamo di riscoprire, un po' come si parlava adesso di Sabrina Salerno, eccetera, eccetera, icone VIP, ma sempre in chiave pop, ci possiamo provare. Altrimenti, io boh, non so chi sono i VIP adesso. Sono morti, per me stanno a morire tutti. È per quello che impazziscono. E qui a noi ci serve questa roba qui, non ci servono le cose serie, non ci servono le persone che a 70 anni sono ancora dentro, sono sul pezzo, ci servono quelle che sbarellano e cominciano a esserci. Sapete che ho dimenticato per esempio Red Ronnie, perché non invitiamo Red Ronnie? Lui secondo me ci viene. No, secondo me ci manda qualche fantasma. Fa prima, no, lui, quello no. facciamo come si chiama, l'evocazione in diretta, e lui ce lo raggiunge. Secondo me ci viene, certo. Red Ronnie, cioè se tu gli mandi una mail, gli scrivi bene, roba del genere, fa una live web radio con noi, e lui su Skype si collega. Gli facciamo una lettera con ChatGPT. Poi ci porta Red Ronnie per convincerlo a venire da noi. Capito? Beh, perché, allora. Ecco, per esempio, una rubrica: quale potrebbe essere il defunto con cui vorreste parlare? Chi avreste voluto? La cosa peggiore è: qual è il defunto con il quale parli? Che è ancora peggio. Quello è sull'altra rubrica, invece. VIP, via in pezzo. Allora, se vogliamo sottilizzare, parlo spesso con uno che è morto a 33 anni, non so se vale. Ah, io sì, pure. Vabbè, lo chiamo. Ma con tutta la famiglia. No, più che ci parlo, lo chiamo, che è diverso. Sì, nel senso, vabbè, diciamo che io articolo spesso dei costrutti a lui dedicati, non è che mi limito a chiamarlo. Ma ti risponde? Non sono abbastanza incisivo, probabilmente, devo usare di più. Sì, mo ci penso un attimo. Io penso che vorrei parlare con Ettore Majorana. Mamma mia, con Ettore Majorana. Con Ettore Majorana. Perché vorrei sapere se veramente lui, insieme a Tesla, ha fatto il raggio della morte. Ah, parla direttamente con Tesla. No, parla slavo, perché Tesla, Tesla non parla italiano. No, parla inglese, slavo. Che lingua parlerà? Lo svastico. Vabbè, no, parlava svastico. Svastico, esatto. No, ma io penso che giochi elastici per bambini di svalti. Comunque, no, parlava inglese. Majorana penso che parlava inglese. Ma sì, stava in America, suppongo, sì, proprio di sì. Insomma. Però magari gli riesce meglio l'italiano a Majorana. E poi anche con Fermi vorrei parlare per sapere se la scena di Oppenheimer, dove lui praticamente passa per uno scommettitore piuttosto che uno scienziato, lo aggrada, lo soddisfa. Oppure che non è stata inclusa la scena in cui lui strappa un foglio di carta e butta al vento nel d'urto per calcolare a che forza andava, che non è stata messa nel film, e lui secondo me c'è rosicato. Esatto. Cioè, è una cosa interessante, non ce la metti. Ecco, un'altra tipo scene tagliate dai film, ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Anche Lorella Cuccarini è un'icona pop degli anni 90, dai, diciamo così, e la ricordiamo nella famigerata scena di Star Trek. Siamo già nel 90. Il personaggio di Star Trek più bello, ben delineato. Scusa, intanto Vincent Valentine dice: una volta che si cita Eleonora Brigliadori è finita la rubrica sui VIP. Questo è un dato importante. Eleonora Brigliadori insieme a Red Ronnie. Eleonora Brigliadori è anche nella sigla del Popcorn, non a caso, cos'è dire. Se volete ve la faccio risentire, perché così. Ma no. Dai. Tra l'altro, voi non avete capito, non avete colto la sottigliezza della sigla dei Popcorner, perché all'inizio era una discussione tra me, Sbano e Gualdi tantissimi anni fa, dove dicevamo. Che era la nascita di. Esatto, dicevamo: vabbè, tra una birra e l'altra parliamo di un argomento. E arriva la signorina e dice: ecco l'acqua. Che vergogna. Esatto. Allora, questa cosa, però, poi la sigla. Ci passi l'asset, perché tu l'hai lanciata mentre eravamo qui in attesa, non è che l'abbiamo, io personalmente sì, non l'ho sentita. Sì, già ce l'hai nel gruppo, bene, però se vuoi te la rimando. Qualcosa del passato. No, dopo me la vado a cercare. Ok. Comunque la posso anche far risentire così, per chi se l'è persa, insomma, cioè, momenti. Mi sembra giusto. Bellissimi, dai, mettiamo la sigla così, da caso, dai. Ma, ma chiudiamoci la trasmissione con la sigla, no? Io invece pensavo che secondo me la birra è ognuno porta un suo argomento, cioè una sua tematica. Arriva l'acqua. Posso durare Trasmissione no buona. No, lo vedrete cosa succederà tra 18 mesi. Salvateli tutti. A stronzo! Pop Corner. Vabbè, il vecchio Giuseppe Saso. Ma, che... scusate. Prego, prego. Sto cercando di ricordare quel... Ecco l'acqua, per caso era dal compianto Diego? Dici? Sì. Forse sì, all'aperto da Diego. Io mi ricordavo più che eravamo all'ex Monkey. Eravamo da Diego. Da Diego, ok. Mm. Vabbè. Non mi ricordavo questa cosa, cioè non mi ricordavo dove ero, però ecco l'acqua. Ecco l'acqua. Tra una birra e l'altra, ecco l'acqua. Sì, però parlando di birra, che ti dicono ecco l'acqua... è fortemente offensivo, secondo me la macchietta è tutta lì, insomma. Ma facciamo, diciamo, gli sboroni, la nostra discolpa era soltanto per lavarci le mani prima di bere la birra, le mani. Io sai che io non mi ricordo in quale ristorante eravamo e con chi eravamo, che al centro della, forse eravamo un ristorante indiano, non mi ricordo, che c'era questa contenitore, questa ciotola con questo liquido scuro dentro, che qualcuno ci ha tinto la roba da mangiare perché pensava che era una salsa, invece era per sciacquarsi le mani. Non era in mia presenza, grazie a Dio. No, mi sa che c'eri pure tu, però non so chi l'ha fatto. Di poter dire che non c'ero. No, tu non c'eri sicuro, perché una cosa del genere me la tanti anni fa. Non c'ero. Non c'eri, io ricordo sta scena che era bellissima. Che strana sta salsa. Fa bene la pelle, fa bene i capelli, come si dice. E vabbè, e quindi Andrea, che tu te le sei mangiate salse sbagliate? Scusa, non è andata via la voce. Ah, no, dico, te le sei mai mangiate delle salse sbagliate? No, perché io, a parte il fatto che non mangio salse, vedi, ho tanti difetti. Vedi, vabbè, tu sei amico dei Gualdi, peggio. Perché mangi in cazzo, ma fondamentalmente. Io le salse le mangio almeno, esatto. Cioè. Lui beve solo caffè, caffè. Eh sì, lui è di caffè, sì. Caffè. Sono caffè. Abbastanza schizzinoso, ma ne avevamo già parlato, mi pare, su Runtime, il fatto che io non mangio proprio. Sì, su Runtime by Night, ma è un'altra trasmissione, però, capito? Cioè, non è che le trasmissioni sono comunicanti. Intanto qui ci sono proprio dei singhiozzi della rete, comunque. Infatti anch'io sento. Più che dei singhiozzi della rete, è proprio Skype che sta a fare un casino. Comunque. Vabbè, dai, io direi dovremmo valutare strumenti alternativi. Comunque. Allora, ragazzi. No, però sai che comunque in passato ho mangiato cose schifosissime in viaggio e vabbè. Ah, vabbè, sì, quello lo sapevo, sì. Vabbè, quando esci dall'Italia è facile che mangi cose schifosissime. No, ma sì, tu devi devi considerare che Andrea Trevisan, con le mosche. Esatto, andava in camper in Egitto negli anni 70, quando a malapena i camper c'avevano il posto dove fa la cacca, insomma, le ruote. Esatto, quindi immagina, insomma, che disagio. La cacca direttamente sul posto di guida. No, è che una volta ci siamo fermati a mangiare in questo posto all'aperto dove cucinavano in mezzo alla sabbia queste focacce. Che buone le focacce con le olive, Non so olive. Le abbiamo mangiate tutti. No, però poi non erano olive, erano mosche. Va bene, ragazzi. Allora, questa è un po' un'infarinatura di quello che vorremmo fare con Pop Corner, ossia un angolo pop dove parlare di un po' di tutto, insomma, anche cose che ci piacciono e sono piaciute, anche nostre passioni condivise, moderne, passate, serie TV, cose, cazzi e mazzi. Cercheremo appunto di dare anche risposte ai vostri problemi di cuore, anche ai vostri problemi di computer, oppure di sapere con quale VIP vorreste parlare da morto. O, no, da morto no, cioè tu non devi essere morto, deve essere morto il VIP, perché sennò è facile. Esatto, vai lì e parli, cioè, nel senso, se volete morire anche voi ci avvisate. Esatto, perché ricordiamoci, tra l'altro, io lancerei anche un servizio di coccodrilli personalizzati. Esatto, se qualcuno di voi vuole morire ci dice come volerlo ricordare, non lo ricordiamo. Esatto. Coccodrillo personalizzato, l'auto coccodrillo, cioè, nel senso, io vorrei che voi mi ricordasse così e noi registriamo il... Poi se fate una donazione a Runtime Radio usando paypal.me/runtime radio prima è ovvio di morire. Prima di morire, naturalmente. In quel caso facciamo anche il coccodrillo per la suocera. Esatto, o per tutta la palazzina, anche volendo. Vesto io, se volete, da coccodrillo anche. E infatti. Ma il coccodrillo come fa? coccodrillo come fa? Questo per rispolverare l'OGM, insomma. Esatto, esatto. Infatti, guardi, aveva colto, io no. Ringrazio Andrea Trevisan. Vabbè. Bene, grazie a tutti. Scusate il ritardo, ma vabbè. No, soprattutto il ritmo è una cosa importante. Insomma. Ringrazio Walter Sbano. Ragazzi, buonanotte. Ciao. Ringrazio Carmine Puccio Console, lo scoposo. Buonanotte a tutti, ricordatemi così. E ringrazio con questo aggettivo. Ringrazio anche ovviamente il nostro amico Marco Gualdi. È stato bello vederci. Vuoi, di nuovo? Vuoi concludere con una perla? Sì, è perla. Natale. È Natale, quindi tanti auguri. Ok. Perché la settimana prossima già basta. Vabbè, salutiamo anche gli amici che ci hanno raggiunto in chat, il nostro Vincent Valentine, il nostro Libra, il nostro Luca S, che ci hanno fatto compagnia sulla nostra chat diretta a Runtime Radio su Telegram. Ok, fateci sapere se avete suggerimenti, indicazioni, se volete dire cose, mandate messaggi, perché più mandate messaggi più noi non dobbiamo andare a creare dei file con l'intelligenza artificiale, che è sempre una cosa un po' triste, ma qualcuno ci deve scrivere. Se nessuno ci scrive, noi sono un inventato. Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Ciao!